Un'esperienza. Torino, ore 7. Mi sporgo dalla finestra e vedo il sole che annuncia una bella giornata. Mi vesto in fretta e vado al parco che dista poche centinaia di metri per leggermi, come di consueto, la parola di Dio. Prendo con me un Nuovo Testamento tascabile, che ha tutta l'aria di essere un romanzo e non un testo religioso per non precludere un'eventuale conversazione sulle cose di Dio. Scelgo un posto dove ci è più verde, vedo molte panchine e non faccio fatica a vederne di vuote, perché a quell'ora il parco è pressoché deserto. Non ci è molto caldo, è aprile, e quindi sono costretto a scegliermi un posto al sole. Decido di sedermi dove vi sono due panchine vicine. Dopo aver ringraziato Dio nel mio cuore per la possibilità di leggere in pace la parola di Dio, per il sole, per il verde, per gli uccelli che cinguettano, per il silenzio, mi immergo nella lettura. A un tratto mi accorgo di non essere solo. Il tempo non si è fermato e la gente cerca, come me, un posto al verde lontano dal rumore delle macchine. Osservo compiaciuto intorno. Ci è chi fa podismo. Ci è la coppia con i bambini che passeggia. Ci è il nonno che spinge la carrozzina con il nipotino, ancora addormentato. Ci è chi porta a spasso il cane. Proprio uno di questi ultimi si dirige verso la panchina di fianco alla mia e si mette a sedere per leggere il giornale. Bene, penso, sono in compagnia e mi rimetto a leggere. Non passa molto tempo che un uomo e una donna si avvicinano e offrono degli stampati al mio compagno di lettura, ma questi risponde piuttosto seccamente. Per niente scoraggiati, dal momento che non sono lontano, si rivolgono a me. Prima ancora che aprano bocca so chi sono, cosa vogliono. Si tratta di testimoni di Geova. Alla loro solita e automatica presentazione rispondo che sono cristiano. Questi con un viso raggiante rispondono: bene, allora abbiamo qualcosa in comune. A quel punto noto il mio vicino di panchina che se ne va. Ascolto con pazienza tutto il loro discorso e quando alla fine comprendono che non riescono a vendermi un loro periodico, decidono di regalarmelo dopo aver promesso di leggerlo. Non si sono allontanati di molto, ed ecco riapparire il mio vicino di panchina. A questo punto cerco di instaurare un discorso. Si era allontanato perché l'avevano importunata. E sì, è già la terza coppia che viene ad offrirmi il loro periodico, ma io non mi interesso di religione. Sono ateo. L'ultima parola è stata detta con tale forza che non ci è possibilità di replica. Si presenta come l'ateo più incallito di questo mondo, ma quella frase per me è una sfida. Sto leggendo nel libro degli Atti come Dio per mezzo del suo spirito avesse compiuto cose meravigliose e nel mio cuore sento il desiderio di realizzare la pienezza dello Spirito Santo per poter annunziare con potenza la parola di Dio. Così riapro con fiducia la bocca. Sono molte le persone che dicono di essere atee e io le rispetto. Il mio tono è remissivo, però, aggiungo facendo un po' di pausa come se fosse la prima volta che penso a queste cose, mi sembra che sia più difficile essere atei che credenti. L'ho provocato. Cosa sarebbe successo? Mi aspettavo una reazione non molto migliore di quella che aveva avuto con i testimoni di Geova. Sono ateo e non credo in niente. Ammiro queste persone che vanno in giro perché credono a quello che fanno, però io non voglio saperne niente. E andata bene. Posso andare avanti. Capisco benissimo. Molte persone sono così disgustate della religione che arrivano ad affermare che sono atee. Però, come dicevo prima, è più difficile essere atei che credenti. È più difficile dire che Dio non esiste piuttosto che dire il contrario. Sento che ho bisogno di avere un contatto più umano con il mio vicino, così aggiungo. A proposito, io sono modenese e sono qui perché ho sposato una piemontese e abito qui vicino e, visto la bella giornata, sono venuto qui per leggere un po'. Si sta bene qui. È vero, risponde questo con aria gioiosa perché avevo spostato l'argomento della conversazione. Io sono in pensione e vengo tutte le mattine a sedermi in questa panchina. Porto a spasso il cane, leggo il giornale e cerco di godermi la vita il meglio possibile. Fa bene, rispondo con tono deciso, così tutti i giorni gode delle bellezze di questo mondo. Il verde, il sole, il canto degli uccelli. Però, osservando questo mondo così bello, Cij è da meravigliarsi. Quando penso a un mondo così perfetto, agli astronauti che vanno sulla Luna e sbagliano il loro obiettivo di poche centinaia di metri, nonostante che la Terra giri, insieme alla Luna stessa, a tutto il sistema solare che si muove, io penso che non è possibile che tutto questo sia nato dal caso o da un'esplosione. È più facile credere che ci sia un creatore che ha fatto e governa questo mondo, piuttosto che tutto venga dal caso, non le sembra? Non sto predicando. Parlo come qualcuno che riflette intorno a ciò che lo circonda senza partire dal presupposto di essere un credente, e il mio compagno lo avverte. Beh, qualcuno... Kit è, questo lo capisco, ma andare poi a sapere chi è. Sono incoraggiato. Ringrazio Dio nel mio cuore per l'andamento della conversazione. È proprio questo quello che mi sono chiesto, dico sempre con il tono di colui che è alla ricerca. Ma possibile che il Dio che ha creato questo mondo, che si interessa di ogni filo d'erba, lasci noi uomini alla deriva? Io stento a crederlo. Noi siamo degli esseri importanti, per il solo fatto che non abbiamo solo un corpo o un'anima, ma anche uno spirito. Ha mai visto il suo cane ammirare un tramonto? A questo punto l'uomo mi guarda un po', sorpreso, ma capisco che sta seguendo il mio ragionamento. Così continuo. Se abbiamo uno spirito, allora abbiamo qualcosa che nessun'altra creatura ha in questo mondo. Qualcosa che va oltre la morte. Ma possibile che Dio non si sia curato di noi, che non abbia fatto nulla per farsi conoscere? Questa è una domanda che mi sono posto tante volte. Non le sembra giusto che uno si ponga questo problema? È una domanda giusta, ma... E allora, continuo impedendogli il discorso anche se non è mia abitudine, ma capisco che in quel momento è bene farlo. Cosa ho fatto? Mi sono messo alla ricerca. La storia mi dice che è esistito un uomo di nome Gesù che ha detto di essere Dio. Che Gesù sia esistito nessuno può negarlo, in quanto è esistito al tempo di Ponzio Pilato, di Erode, persone che la storia ricorda. Vero che non si può negare che Gesù è esistito? Non voglio fare un lungo discorso, è mia abitudine infatti fare domande, perché oltre a vedere se il mio interlocutore ha capito, posso instaurare un dialogo, altrimenti, anche se non voglio, cado nella predica. Che sia esistito non si può negare, risponde, ma ce ne sono stati di uomini che hanno detto tante cose come Gesù. È vero, rispondo, molti hanno fatto delle affermazioni stupende, ma Gesù ha detto una cosa che nessuno ha mai osato dire. Tanti hanno detto di essere dei profeti, per esempio Maometto, e tanti hanno detto di essere mandati da Dio, ma nessuno ha mai detto di essere Dio. O Gesù era Dio, o era matto. Però, a pensarci bene, matto non doveva essere perché ha detto cose tanto belle e valide che ancora oggi molti si rifanno a ciò che ha detto. Quindi doveva essere veramente Dio, e questo vuol dire che Dio si è interessato di noi, che ha voluto far sapere cosa pensava e cosa voleva da noi. A questo punto ritengo necessario alleggerire la conversazione. Vede, dico, Dio ha voluto usare il suo figliuolo per parlarci. Egli non parla dal cielo dicendo: «Senti, Ellero, a proposito, io mi chiamo Ellero, un nome toscano. Sa come l'ho avuto?» E, cominciando da mio nonno, spiego come ciò è avvenuto. Sento il bisogno di stabilire un rapporto più intimo con il mio interlocutore, perché più vado al centro del Vangelo, più occorre che lui mi senta anche suo amico. Poi, come se non avessi mai interrotto il mio discorso su Dio, continuo: «E come si fa a sapere quello che Gesù ha insegnato? Dove posso trovare la storia di Gesù e quello che ha detto?» Non c'è, è molta scelta, nel Vangelo, nella Bibbia, e quel Vangelo che leggono nelle chiese tutte le domeniche, perché di Vangeli ce n'è, è uno solo. Ecco perché lei poco fa mi ha trovato a leggere il Vangelo, perché desidero sapere ciò che Gesù ha detto. Io non leggo ciò che gli uomini dicono, ciò che le religioni insegnano, ma quello che Dio dice. Capisce l'importanza di questo libro? E Dio che parla, non è meraviglioso? Sì, è bello però. Chi ci capisce qualcosa? E poi tanti la vedono diversamente. Verissimo, rispondo prontamente. Però non è una cosa poi tanto strana. Per esempio, in Italia abbiamo delle leggi che a volte sono oggetto di discussioni perché le loro interpretazioni sono diverse. Ora, il fatto che le interpretazioni siano diverse non invalidano le leggi, non è vero? Quindi, il fatto che ci siano varie interpretazioni sulla Bibbia non vuol dire che essa non sia vera. Per questo, io credo più a quello che è scritto piuttosto che a quello che gli uomini dicono. Cosa ne pensa? Faccio bene o faccio male? Beh, se fa così, risponde quasi convinto, non lo trovo sbagliato. Anzi, ammiro la sua fede perché vedo che lei crede a quello che legge. Sono arrivato a un buon punto, ma non sono ancora soddisfatto, e così continuo. Vede, questo libro è molto importante, perché oltre a farmi sapere ciò che Dio dice, mi dà anche la giusta comprensione delle cose. Per esempio, tutto quello che ora vediamo sparirà. Infatti, una volta c'erano delle opere grandiose che ora non ci sono più, mentre quello che non si vede, dice la parola di Dio, non passerà. Capisce? Le cose che hanno valore sono quelle che non si vedono, ecco perché nella vita è saggio occuparsi non solo delle cose di quaggiù, ma anche di quelle di lassù. Leggere il Vangelo, mettere in pratica il suo insegnamento, occupandomi di chi ha bisogno, esercitandomi nell'amore, nelle cose giuste e buone, sono cose che hanno un valore eterno. Vedo che lei è un uomo impegnato e felice. Sì, sono impegnato e questo è un dono di Dio. Un cristiano non è mai disoccupato, e se lo è, non vive da cristiano. Bene, risponde, ora devo andare. Si alza e sta per partire quando con poche speranze gli propongo. Senta, lo vuole questo Nuovo Testamento? No, grazie. Vado spesso a casa da mia figlia e lei ne ha uno. Ma uno suo personale lo vuole? Glielo regalo. Va bene. Posso metterci il mio nome così si ricorda di questa conversazione? Sì, risponde con una titubanza che non capisco. Senta, posso metterci una dedica? Ma è proprio quello che voglio. La metta qui, risponde mostrandomi le prime pagine del Nuovo Testamento. Come si chiama? Rodolfo. Dopo aver scritto la dedica e salutato il mio interlocutore, torno a casa soddisfatto e contento. Soprattutto fiducioso che il Signore opererà il resto. Può darsi che non lo riveda mai più, può darsi che lo riveda in cielo, e allora saprò se la preghiera della mia dedica sarà stata esaudita. A Rodolfo perché conosca la pace e la gioia di Dio per mezzo di Gesù Cristo, come suo personale Salvatore e Signore. Torino, 23 aprile 1984. Aprile 1984. Ellero.